si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. La prima cosa per me è andare nel cratere, vedere e capire. Non sarò un commissario calato dall'alto. Per me la cosa fondamentale è il territorio. Chiaro che fa notizia su questa cosa, però, cioè, io me ne frego altamente. Ma perché su ogni cosa, 24 ore dopo, la caccia alle streghe che è al colpevole? Io penso di aver dato una prova di dignità estrema. Questa è la storia della coperta corta, no? Se tu c'hai i vincoli del bilancio che ti sono imposti dall'Europa, cioè, poi dopo cominciamo a dare, no? Anche se vi dico che le partite si giocano a monte, no? Cioè, il sindaco è l'ultima ruota del carro. Eccoci qua, 18 e 7 minuti, buonasera ascoltatori, ben ritrovati, buonasera ad Alessio Maurizi, con Si può fare, 18 fino alle 20, 800 24 00 24. Avete sentito le parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha molte attenuanti, è ovviamente un uomo anche lui distrutto, è, per certi aspetti è finito nel fuoco incrociato della stampa, sì, va bene, molte attenuanti, però... Invece di dire che si meriterebbe l'Oscar per quello che ha fatto, perché non spiega, per esempio, perché è stato affisso un cartello, chi ha affisso quel cartello davanti alla scuola Caprarica, nel cartello si diceva che la scuola aveva subito dei lavori di ristrutturazione, soprattutto per quanto riguarda la vulnerabilità sismica dell'edificio, cosa che invece non era vera. Oppure perché non spiega perché i lavori alla caserma dei carabinieri di Amatrice, finanziamento di 3 milioni stanziati nel 2009, non erano ancora nemmeno iniziati. La caserma non è affar suo, però il territorio è affar suo. Se non è responsabilità sua, è competenza spiegare ai cittadini che cosa è successo. 800 24 00 24. Il ministro della Salute, Lorenzin, sul Fertility Day. Fare le politiche per la salute. Tra l'altro, puoi farmi gli asili, ma se poi sei sterile e non riesci a avere i figli, non ci abbiamo poi i bambini da metterci dentro. Questo non è un invito alla gravidanza, questo è un invito alla consapevolezza sulla propria fertilità. Oh, no, fino ad oggi abbiamo avuto il problema contrario, semmai, cioè abbiamo avuto bambini e non abbiamo avuto asili, però magari potrebbe anche succedere il contrario, per l'amor del cielo. Ancora, le Olimpiadi del 2024, e mentre la Giunta di Roma perde pezzi, si sono dimessi il capo di gabinetto e l'assessore al bilancio, non c'è ancora una decisione finale della Giunta Raggi sulla candidatura alle Olimpiadi. Se deciderà di no, vorrà dire che nel 2028 candideremo un'altra città, che devo dirle, non è possibile, è un'occasione persa per Roma. Buon pomeriggio al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, abbiamo voluto partire così con Cry Baby di Janis Joplin, Piangi il bambino, perché poi i bambini piangono, sono anche un po' fastidiosi, io ne ho due, posso dirlo. Anch'io ne ho due. Beh, lo sappiamo tutti, lo sappiamo. E piangono la notte. E son guai. Allora, Ministro, Fertility Day, una... selva di polemiche, se lo immaginava però un po'. Assolutamente no, assolutamente no, perché il Fertility Day è una grande campagna di informazione su un tema molto sentito e purtroppo anche grave, che è quella della salute riproduttiva della popolazione italiana. Sì. Salute riproduttiva purtroppo messa fortemente a rischio da una serie di fattori, per cui noi abbiamo un 15% della popolazione italiana che ha un tema di infertilità grave e che noi ovviamente dobbiamo curare e prevenire, e poi in questo 15% c'è ovviamente un aumento dell'infertilità che arriva a punte del 30-35% dopo i 32 anni. Quindi abbiamo una serie di problematiche sanitarie che affrontiamo, come affrontiamo le altre, in modo molto laico e sobrio, sì, con una grande campagna di informazione. Però scusi, non sembrava molto, guardando almeno le slide che sono uscite, le prime immagini di questa campagna, sembrava più un invito a fare figli, una questione sulla natalità, non sul fatto della fertilità. Abbiamo capito male noi? Sì, è stato capito male perché... E sicuramente ci saranno stati anche degli errori da parte del Ministero, innanzitutto perché la campagna non è stata ancora lanciata, quindi è stato preso dal sito del Ministero alcune delle 80 slide, cioè che non sono slide, sono cartoline, sì, che sì, devono essere poi distribuite durante queste giornate di informazione insieme ad altri opuscoli, che sono cartoline che hanno un fronte che ovviamente cerca di attrarre anche l'attenzione, è inutile negarlo, se no non si può fare comunicazione, con dietro tutta la spiegazione del caso. In questo caso c'era sul sito c'era soltanto la parte frontale e non la parte diciamo posteriore. Poi glielo dico subito, qui al Ministero nessuno ha voluto, cioè nessuno c'è intenzione di fare cose che possono provocare. L'intenzione del nostra è quella di fare una vera campagna di informazione per permettere aiutare 2 milioni di persone che in questo momento non possono avere figli a come averli dal punto di vista sanitario, noi parliamo sanitario, e poi di fare una grande campagna di prevenzione sulla fertilità, sulla diciamo preservazione della fertilità rispetto a fattori di rischio molto gravi in aumento, parliamo delle malattie sessualmente trasmissibili, sì, che sono fortemente in aumento e sottovalutate, così come fattori di rischio droga, alcol, fumo e fattori legati alle sindrome metaboliche, problemi diciamo. Beh, ecco, perché tutta questa parte qua, io per esempio quando si parla quando si parla di questi argomenti mi vengono in mente i miei amici che stanno cercando di avere figli e non ci riescono, quindi una campagna sulla fertilità, mi immaginavo dei messaggi incoraggianti o dei messaggi rivolti a loro sul fatto che ci possono essere delle cure, la gratuità, infatti, la prevenzione, però così. Da queste immagini non si vede, si vede la mamma col pancione, la clessidra. Posso dire una cosa, sì, innanzitutto le immagini che sono uscite sono 3-4 immagini su 100, quindi immagino che chi le ha postate perché si è sentito in qualche modo offeso oppure ha voluto sottolineare un aspetto, ha preso una parte. Qui ci saranno altre che verranno fuori? No, ci sono già, sono più di 80, e poi la campagna non consiste solo nelle cartoline. Le cartoline sono un aspetto che viene distribuito, ci sono i opuscoli di informazione, ci sarà una serie di convegni organizzati nei villaggi fatti nelle città italiane in collaborazione con l'ANCI, con la partecipazione delle famiglie, genitori, educatori, medici, assistenti sociali, psicologi, sì, la rete dei consultori familiari, sono state coinvolte tutte le società scientifiche, e la campagna è su 2 fasce di età. La fascia di cui parla lei, cioè le persone che oggi vogliono avere bambini e non riescono perché hanno problemi legati enorme legati alla loro fertilità, quindi dargli consigli, incoraggiarli, indirizzarli rispetto a delle soluzioni terapeutiche e anche al limite sulla procreazione medicalmente assistita, che voglio ricordare io ho messo gratuita nei nuovi livelli essenziali di assistenza. Scusi se faccio un inciso, sì, però, perché qui per esempio l'età c'entra ma anche non c'entra, perché ci possono essere anche coppie, certo, giovani, e quindi il discorso della clessidra, certo, adesso poi mi farà fare anche qualche riferimento. È una cartolina su 100. Lo so, però una è quella, l'altra è quella del pancione, la fertilità è un bene comune. Ma allora, su quali? Questa invece è l'unica che difendo, delle altre 2 che non mi piacciono, questa la difendo. La fertilità è un bene comune, però sì, mi fa dire una cosa, sì, però le faccio, sì, io l'obiezione, poi lei mi dice perché la difende, così le do anche un argomento su cui eventualmente rispondere. Sarebbe un bene comune se ci fossero delle politiche di sostegno alla coppia, ma siccome in Italia non ci sono, allora è lì che casca l'asino, non è per niente un bene comune, è un fatto privato. La ringrazio per questa domanda perché mi permette di dare una risposta che è stata una delle cose più sentite. Allora, lei, la sua domanda fa quello che fanno tutti, ma questo è il motivo per cui noi dobbiamo parlare di fertilità, e che io spero che il 23 di settembre almeno ci sia il 23 settembre, perché il giorno dopo il 22 molti più italiani sappiano che cos'è la fertilità. La fertilità non è la natalità, cioè le politiche sulla natalità, che sono sacrosante e giuste in questo paese, che non ci sono mai state, politiche a sostegno della genitorialità, della famiglia, degli strumenti, soprattutto in questa fase di crisi, per reggere diciamo, una scelta di genitorialità. Noi non ce l'abbiamo mai avuta in Italia. Il vero sostegno alla famiglia era la famiglia, cioè come ammortizzatore sociale. Oggi è impossibile, in questa crisi questa cosa è venuta ancora più fuori. Detto questo, noi abbiamo un tasso di decremento della popolazione enorme, un tasso demografico bassissimo, siamo sotto il tasso di sostituzione e siamo, cioè, a 1,3 figli per coppia. Di questo l'Italia oggi, nei prossimi 15 anni, se ne dovrà occupare, altrimenti noi rischieremo molto come sistema economico paese. Ma queste sono le politiche di natalità, su cui io sono a favore, ne ho proposte molte anche col mio partito e spero che siano finanziate in legge di stabilità. Però le due cose si devono tenere insieme, perché sono cose separate. Mi faccio finire, ma io sono il ministro della salute e io mi occupo del tema sanitario. La fertilità non è la natalità, la fertilità è la possibilità di avere figli, cioè la salute del nostro sistema riproduttivo. Allora, il nostro sistema riproduttivo, come gli altri sistemi del nostro corpo, devono essere preservati e garantiti e aiutati, come avviene per tutto il resto. Quindi nessuno si scandalizza se facciamo campagne di prevenzione per i problemi cardiovascolari o per le malattie neurodegenerative o per il cancro. La salute riproduttiva è un tema pubblico in questo caso, perché è un tema che riguarda la riproduttività del paese, perché ci abbiamo le terapie, le cure, perché va preservata, perché una popolazione dove cresce e si incrementa il tasso di infertilità e quindi patologia, non c'entra niente con la scelta, con le politiche attive, questo diventa un problema di salute pubblica. Quindi dobbiamo inquadrarlo dal punto di vista della fertilità, che è un punto di vista prettamente sanitario. Io capisco il suo punto di vista, però il governo è lo stesso. Sì, però il governo è lo stesso e quindi quello che fa il ministro della salute non può ignorare quello che fa il ministro del welfare o del lavoro. Infatti io dico una cosa, io ho cominciato dal mio punto di vista e ho messo il mio tassello, che è un tassello che riguarda la salute. Adesso io spero che gli altri mettano il loro tassello, e anche il ministro Costa ha fatto una proposta importante, il ministro per la famiglia, sulle politiche invece della natalità per la legge di stabilità, che è un primo passo importante dell'Italia, che non ha mai avuto politiche di questo tipo. Io spero che siano sostenute da tutto il governo, ma lo dico non soltanto perché ritengo che siano molto importanti, ma perché ritengo che abbiano una visione di lunga gettata per il paese nei prossimi anni su un tema che non ti porta a consenso oggi, ma che risolverà molti problemi domani a tutti quanti noi. Se mi dà 30 secondi per fare una pausa sul traffico, le informazioni di 30 secondi, so che ha degli impegni, ci deve lasciare tra non molto, però per chiudere l'intervista devo fare questa piccola pausa. Resta con noi? Certo. Ecco, allora torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, alle 18:19 minuti, di nuovo in compagnia del ministro della salute Lorenzin. Riprendo e puntualizzo dal mio punto di vista lo slogan scelto per una delle tante cartoline. Il ministro ha detto ce ne saranno altre, quindi non è tutta lì la campagna, però sul Fertility Day: la fertilità è un bene comune. Io insisto e dico è un bene comune, per esempio in Francia, dove ti danno 185 euro al mese dal quarto mese di gravidanza, oppure in Germania, dove lo Stato garantisce un posto nell'asilo e se non lo trovi hai diritto a fare ricorso. Allora lì si può dire, secondo me, che la fertilità è un bene comune. Questo è il mio punto di vista, però lei su questo ha già risposto. Invece la clessidra, perché la clessidra ha fatto infuriare parecchie donne, si è detto colpevolizza donne che magari vorrebbero rimanere incinta ma non riescono. Si parte dal punto di vista che queste donne non vogliono avere figli, se ne fregano perché sono magari egoiste. Ma non è assolutamente vero. Queste sono state tutte cose che io non so da dove sono state prese, perché non, cioè, si è fatto astrazione su un'immagine. Io ribadisco. Beh, l'immagine però presi. È forte, l'immagine sì, è forte. Sì, l'immagine è molto forte, quindi come ho già detto, se l'immagine sì. è offensiva noi la cambiamo, perché noi non ce ne a me sinceramente non me ne importa niente, cioè non sono lì certamente che sto, mica l'ho fatta io la campagna, a me interessa che si raggiunga l'obiettivo e quindi il Ministero sta già correggendo questi aspetti, ma c'è un aspetto molto più importante però, noi no, qui non si colpevolizza chi non vuole avere figli o chi non ha potuto averli, che non c'entra nulla, qui si fa informazione. Allora noi abbiamo delle generazioni, ma se noi dietro questo lavoro c'è il lavoro di 2 anni di scienziati, società. Sì, però che scusi, hanno fatto non mi venga a dire che le donne non sanno che a una certa età non si possono più avere figli. Scusi, ma lei lo sa fino a che età è fertile un uomo? No, non lo so esattamente, no, allora, non lo so. Perché lei non lo sa? Non lo so perché non sono informato, però lì non c'è scritto quello. Sì. No, c'è anche la cartolina per il maschio. Però sanno tutti che la fertilità dipende anche da. No, che età è la fertilità delle donne? Io non lo so, però questa cosa la sanno tutti, quindi ripeterla in una campagna di formazione. Mi scusi, sì. Non è vero, perché se lei non lo sa. Ma allora perché non avete messo l'età? Ma perché io le sto dicendo che lei ha visto soltanto l'immagine. No, io ho visto quello che avete mostrato voi. Visto quello no, che avete mostrato lei voi. Ha visto quello che è stato postato su Facebook, che è un pezzo di una campagna, non ci sono le spiegazioni, non c'è quello che è sotto, non c'è niente. Allora io le sto dicendo che un tema importante, a lei non ha saputo rispondermi a questa domanda, e lei è una persona estremamente informata. Le assicuro che non è un caso così estremamente, evidentemente. Sì. Però è una persona che fa informazione, le assicuro è più informato sicuramente della media. Noi abbiamo fatto sondaggi a un'intera popolazione di tutte le fasce d'età, nessuno sapeva rispondere. Quindi uno dei temi che emerge sulla fertilità, ma questo in generale riguarda una prospettiva futura, innanzitutto dare una consapevolezza di un range d'età per le donne. Però adesso, per Ministro, me la dia la risposta, non io mi lasci. Io la risposta. Allora, le donne hanno tre fasce di fertilità, una che è dall'adolescenza fine 32 anni, una dai 32 ai 37, una dai 30 e poi dai 37 in poi, dove il range di fertilità si abbassa a picco dai 32 ai 35, dai 35 ai 37, per poi arrivare praticamente a quasi zero dopo i 40 anni. Ovviamente stiamo facendo indici statistici, ci sono sempre le eccezioni. Gli uomini 35 anni. Dopo i 35 anni ci sono grossi problemi di fertilità negli uomini e quindi c'è questo mito che gli uomini possono avere i figli in tutto l'arco della loro vita, non è vera. Quindi c'è un doppio livello di comunicazione, una comunicazione indirizzata per i giovani, quelli che faranno figli fra molti anni, per dare a tutti quanti una consapevolezza di quella che è la loro curva della fertilità, per organizzarsi la vita e dei rischi della fertilità, e cioè lo abbiamo detto, le malattie sessualmente trasmissibili, i comportamenti, in modo tale da poter fare prevenzione, soprattutto sul maschio, che dopo che non c'è più la visita militare abbiamo grandi problemi sulla prevenzione maschile dei giovani maschi. L'altra fascia di comunicazione, di informazione che verrà fatta al Fertility Day e in tante altre iniziative che dureranno un anno è per le persone che oggi hanno già più di 32 anni, che si stanno approcciando a essere genitori, per farlo in modo sereno, per dargli informazioni, per guidarli se hanno problemi e se non ce li hanno, e quindi anche dare a loro la possibilità di avere una comunicazione migliore sulla propria fertilità e su come preservarla. Poi c'è un terzo livello che è indirizzato agli operatori sanitari, perché ci sono moltissime persone, sempre di più giovani, che si sottopongono a terapie chemioterapiche o a terapie che mettono in rendono problematica la loro fertilità, consigliando laddove è possibile il congelamento dei gameti, e quindi per poter poi avere un'occasione di diventare genitori dopo aver finito le proprie terapie. Ecco, questa parte credo che sarebbe inattaccabile. Evidentemente è venuta fuori una parte che invece era attaccabile, tanto che è stato anche il primo ministro oggi Renzi a dire: non ne sapevo nulla, non è con queste pubblicità che si invitano a fare figli, ma è con gli asili nido. Renzi. Ma io sono convinta, do ragione a lui. Con gli asili nido e le politiche di welfare si fanno politiche sulla natalità, ma le politiche di natalità non curano l'infertilità. Con gli asili nido non riesco a curare l'infertilità, ci vogliono delle terapie. Quindi sono anche qua è un approccio diverso. un tema la natalità, un tema la fertilità. È ovvio che poi le cose sono tutte collegate insieme, ma il mio è un approccio sanitario perché io benissimo. Sono il ministro però della salute. Però una cosa fatela, fate partire il sito, perché il sito adesso che siamo al primo di settembre non funziona. Quindi tutto quello che lei ha detto al momento non è accessibile perché il sito non c'è. Sto impazzendo da un giorno per mettere questo sito online con tutte le informazioni e lo sto dicendo al ministero che insomma devono farlo perché è saltato il sito ieri. E a questo proposito però io voglio dire una cosa. Sì. L'importante del Fertility Day non è una cartolina o l'altra, che passi un messaggio di informazione chiara. Quindi se le cartoline non sono piaciute, si cambiano, ben venga, abbiamo 20 giorni per cambiare insieme le cartoline, per parlare di fertilità e per fare una grande campagna di comunicazione su questo tema. Bene, e questo secondo me che lei in questo momento raggiunto. Sta dando una dimostrazione di intelligenza, perché se uno si accorge di avere sbagliato qualche cosa lo corregge, mi sembra giustissimo. Ma figuri, stiamo parlando di comunicazione e questa è una cosa che anzi, pensi che tutta la giornata sarà interattiva, dove si potrà parlare, la gente potrà mandare le email, fare domande, sarà nelle piazze, quindi c'è una grande occasione di dare una risposta dove c'è molta confusione su questo tema. Senta, le vorrei fare anche un'ultima domanda che riguarda il caso di questa ragazza di 18 anni, la nonna Bottaro, l'avrà saputo, i cui funerali sono svolti molto oggi, grave, morta di leucemia perché non, i genitori, ma lei stessa superata la maggiore età, non ha autorizzato alle cure chemioterapiche perché seguaci del metodo di questo pseudo medico tedesco Hammer, un ennesimo caso di teorie antiscientifiche? Possiamo dire un ennesimo caso di antiscienza. Anche qua, se si fa riferimento al metodo scientifico, all'evidenza scientifica, non si può sbagliare. Se ci si affida a sedicenti guru, a cose scritte sui social, si entra in una dimensione dove purtroppo poi il risultato si vede qual è, che non ha nessuna valenza scientifica su una patologia che poteva essere curata e guarita, ma purtroppo si arriva fino alla morte. E questo è un estremo caso. Di fatto questo è come se si fosse trattato quasi di un caso di eutanasia, perché è una persona che si è lasciata, ha scelto di non farsi curare fondamentalmente. È ma possibile qui siamo questo? Di fronte alle possibilità che sono date da un sistema democratico dove uno sceglie o meno di farsi curare. Dietro c'è una dimensione antiscientifica molto forte. Va bene, grazie, buona serata Lorenzin, grazie per essere stata con noi. Grazie. E allora staremo a vedere. 800 24 00 24, vi ha convinto l'autodifesa, almeno sul principio, di questa campagna del Fertility Day il ministro Lorenzin oppure no? Vi aspettiamo dopo la borsa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Pieno di carrozzelle. A Weil am Rhein è permesso attaccare la bicicletta il carretto con i bambini dentro. Perché i tedeschi fanno bambini e gli italiani no? Forse Schröder e Merkel hanno dato più fiducia all'avvenire di quanto non abbia dato Berlusconi e Renzi, oppure Sarkozy e Hollande. Su questa è una riflessione da fare. Cioè, uno fa bambini quando pensa che ci sia un avvenire. Uno fa bambini quando pensa di dargli un futuro. Se uno guarda il proprio futuro con ansia, di bambini ne fa pochi. Difficile dare torto a Filippo D'Averio. 18:32 minuti. Buonasera, ben ritrovati, cari ascoltatori. 800 24 0024. Nella giornata nella quale, quasi come un effetto domino, cadono tante tessere della giunta romana, non solo della giunta, ma le ultime dimissioni sono i vertici, l'amministratore unico dell'AMA, quella dei rifiuti, ma anche l'ufficializzazione della dimissione del direttore generale dell'ATAC e Rettighieri, e anche di Brandolese, anche qua amministratore unico di ATAC. L'unica voce del Movimento 5 Stelle che c'è in circolazione, noi abbiamo mosso mari e monti per intervistare qualcuno del Movimento 5 Stelle, non parla nessuno, un consigliere comunale, Stefano. No, io non lo sapevo, non ero a conoscenza, non avevano certo avvertito me. Ho visto le agenzie stamattina e le ho apprese, insomma. Non è che avvisavano certo me prima di dimettersi. Minenna è un pezzo importante che va via. Beh, l'assessore al bilancio, non è che lo scoprite da me. L'abbiamo scoperto da un post su Facebook di Virginia Raggi scritto alle 5 del mattino. Che è un orario non proprio consueto per comunicare, fare delle comunicazioni ai cittadini, o quantomeno chissà se ha lavorato tutta la notte su questo tema delle dimissioni, oppure se era un post programmato. Post che è apparso alle 5 di questa mattina, che comunicava le dimissioni del capo di gabinetto e non citava, a dir la verità, il nodo più grosso, che è quello all'assessore al bilancio, su cui si riponevano grosse aspettative di tagli, naturalmente, di razionalizzazione della spesa e di riordino anche nelle partecipate del Comune di Roma. 800 24 00 24, Daniela da Milano, buonasera. Daniela? Sì, buonasera. Eccola qua, prego. Buonasera, io chiamo per quanto riguarda il Fertility Day. Allora, sono donna, mi occupo di marketing e comunicazione e uno dei miei clienti è una clinica che offre cure per l'infertilità. Sì. Quindi credo di avere un po' di voce in capitolo. Ci sta dentro. Quello che volevo segnalarvi è che io ritengo che sia non corretta ma indispensabile l'iniziativa del ministro Lorenzin, perché noi quello che stiamo vivendo è la scelta della donna non dovuta a mancanza di asili o di altro, ma dovuta magari a volontà di fare carriera o tanti altri motivi non economici, di procrastinare la scelta di diventare mamma e ricorrere a costosissime, dolorose e forse anche rischiose cure per l'infertilità quando ormai è troppo tardi. Io nella mia esperienza vedo che arrivano tantissime donne che non sono state informate di questo limite. Sì, lei è sicura di quello che sta dicendo, Daniela, perché secondo me è un effetto ottico. Ci sono le donne, come dice lei, che procrastinano, che parola difficile, poi fanno le cure. Ma ci sono tante donne che non procrastinano perché stanno facendo carriera. Semplicemente, come diceva Daverio, non hanno prospettive, non hanno l'uomo giusto, il partner giusto. Oggi si fa molta esperienza nella propria vita prima di avere un figlio. Non si fa più un figlio a 20 anni. Sono un figlio a 30 anni, a 35, quindi non c'entra nulla la carriera, anzi, semmai è proprio la mancanza di una carriera. Al di là della carriera, che è un solo esempio dei tanti casi che possono accadere nella vita, ma non viene detto né dalla famiglia né dalla scuola e spesso nemmeno dai medici, la donna che dai 35 anni in avanti decade veramente molto velocemente la fertilità e la possibilità di avere un figlio. Quindi questa cosa è indispensabile che venga detta per evitare problemi, per evitare costi per lo Stato enormi nel fare cure per la infertilità che poi non hanno successo a causa dell'età. Quindi io ritengo che sia non importante ma fondamentale. Va bene, ma sul fatto, sì, no, il problema sa qual è come viene realizzata questa campagna, è su questo che ci sono state delle critiche, non sul fatto che potesse essere necessaria, utile una campagna sulla fertilità o sulla natalità in Italia, su cui probabilmente, visto che la scarsa crescita demografica, anzi la stagnazione demografica che c'è in Italia, credo che siamo tutti d'accordo su questo, è il come che ha sollevato campagna, delle critiche. Sì, può essere discutibile, però in qualche modo andava fatto, è tutto migliorabile, ma secondo me c'è più del positivo che del negativo, volevo semplicemente dirvi questo. Sì, ma scrivere la Costituzione tutela la procreazione cosciente e responsabile con le scarpine da bambino e il nastrino e tricolore che ci gira intorno, che è un po' il concetto della fertilità, un bene comune, in un paese come l'Italia dove queste politiche di sostegno alla natalità non ci sono, sa un po' di beffa, questo sì, è quello che è sembrato. Sì, allora a me. Lì poi, anche i miei colleghi creativi sì, potevano, o forse non hanno potuto per causa della committenza, fare di meglio. Però ripeto, io vivo questa cosa come donna, come professionista nel settore, secondo me c'è scarsa informazione, troppa poca. Cioè lei dice ci sono donne che si svegliano tardi, si occupano della loro carriera, poi quando arrivano a 38 anni, adesso voglio avere un figlio, si accorgono che non è possibile. E vanno in Spagna a fare l'eterologa perché non c'è il divieto di farsi donare lo sperma e neanche l'ovocita. Quindi io vi dico che questa cosa è molto diffusa e sarebbe da evitare. Va bene, grazie Daniela. Io credo che questa cosa sia diffusa in certi ambiti, in certi ambienti, forse di una elite anche economica che ha un lavoro, una carriera, si impegna molto per costruirsi una carriera, ci arriva intorno ai 35 anni e quindi si sveglia tardi sui figli. Questo è possibile, però credo che più in generale la questione riguardi anche donne che non sono assolutamente in carriera e non fanno quel tipo di ragionamento lì, semplicemente non hanno l'uomo giusto o, ma poi vale anche per gli uomini, non avere la donna giusta e non avere soprattutto un lavoro, ricordiamocelo, perché quello che dice lei vale per chi è in carriera, ma oggi il 40% dei giovani è disoccupato, quindi il discorso che vale lei può valere per quegli altri, non per quel 40%. Filippo da Forlì, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Io ascoltavo la radio sentendo, rientrando a casa dal lavoro in auto, sia il ministro sia chi mi ha preceduto poco fa, e devo dire che ho fatto due salti sul sedile perché non sono assolutamente d'accordo. Prima di tutto perché ritengo che chi, insomma, guardandomi anche attorno, chi decide di non avere figli, le famose donne in carriera, lo facciano in maniera assolutamente deliberata, non certo perché sono disinformate. Punto primo. Giusto, punto questo secondo, è vero, si dà per scontato che siano tutte inconsapevoli, ma si sa, io l'ho detto al ministro, si sa che dopo i 30 anni, 35 anni la fertilità un po' cala, si sa, non è che non si sa, poi la fascia di età, come lei mi ha domandato, io ci sono caduto perché io non lo sapevo, l'età non la sapevo, i 35 piuttosto che i 38, però che con l'età la fertilità cala lo sanno anche i sassi. Assolutamente, e io devo dire che le colleghe che ho nell'ambiente di lavoro decidono di non avere figli o eventualmente posticipare questa ipotesi, ma in maniera assolutamente deliberata, un po' come i fumatori che non sanno che il fumo fa male, ma io ogni tanto sorrido quando sento dire queste favole. Detto questo, ritengo che posta che l'informazione nei confronti dei cittadini sia una cosa importantissima, avrei visto meglio spendere questi denari per andare a finanziare il welfare rivolto alla famiglia, rivolto sì. a... Sì, no, è vero, però sa Filippo... Eventualmente sì. Provare a incrementare queste nascite che si... Assolutamente, però quanto costa la campagna di comunicazione? 4 lire, quanto costa riempire il welfare di contenuti? Costa ma in maniera tanto, simbolica, quindi, per cercare di allinearci a paesi europei non lontani da noi, che evidentemente spendono nel welfare rivolto alla famiglia molti più denari di quanti non si spendono. Assolutamente, in grazie. Questo Filippo è sotto gli occhi di tutti. Sì, e io un paio di cose le ho citate: la Germania che garantisce un posto negli asili e se non lo trovi nel tuo comune fai ricorso e ti trovano un'alternativa in 3 mesi, la Francia che dà 180 euro al mese dal quarto mese di gravidanza, o la Gran Bretagna che con un reddito inferiore a 32.000 euro ti dà un credito d'imposta a copertura delle spese per la tata, e questi sono i fatti importanti. Poi dopo del resto si può ragionare, insomma, sulla fertilità, ma queste sono le politiche a sostegno della natalità. Allora, buonasera Stefano Esposito, onorevole Stefano Esposito, ex assessore di Roma. Buonasera. Eccolo qua. Allora, che ne pensa della campagna del Fertility Day intanto? Triste. Così. Molto triste. Abbastanza, quindi diciamo è abbastanza tranchant. Però Renzi ha detto non ne sapevo nulla. Questo però è una bugia perché l'ha approvata al Consiglio dei Ministri questa campagna, non mi ricordo in che seduta, ma siamo andati a verificare. Quindi lui o se l'è dimenticato o ha voluto scaricare il ministro. Ma può anche darsi che se abbiano approvato l'idea di fare una campagna ma non abbia visto, diciamo, cosa poi è venuto fuori. I contenuti, questo i è contenuti possibile. Credo che lui non li abbia visti, onestamente. Senta, lui è uno abbastanza attento alla comunicazione, diciamo, non avrebbe fatto una cosa di quella tristezza, ecco, diciamo così. Per Renzi sicuramente ha tante caratteristiche, ma non essere triste. Ma questa campagna triste assomiglia in qualche modo a chi l'ha ideata, al ministro? C'è un giudizio anche sul Lorenzin o no? No, guardi, io credo, ormai è un po' di anni che frequento questi boschi, come si dice, e se la parte politica non presta attenzione a qualunque cosa, la struttura a cui deleghi alcune cose da fare è capace di portarti in Siberia senza che tu te ne accorga, quindi cioè è sfuggita di mano alla Lorenzin? Io credo che la Lorenzin abbia un po' sottovalutato. Probabilmente, ma non è tutt'altro che triste per la verità la Lorenzin. Quindi diciamo gli è sfuggita di mano, ma lei ha detto che la vuol correggere. Senta, io immagino che adesso dall'opposizione, sto parlando di Roma in questo caso, sì, della giunta Raggi, vi godete, tra virgolette, il momento non facile del Movimento 5 Stelle, che sta perdendo colpi, parecchi colpi, uno a uno. Che succede? Beh, mi pare pare che sia deflagrata la lotta interna alle correnti del Movimento 5 Stelle e sia deflagrata purtroppo, sta deflagrando sulla pelle della città, stanno saltando, diciamo, mi pare di poter dare questa interpretazione, sta perdendo Di Maio, il mini direttorio, e sta vincendo il cerchio magico della Raggi. Perché dici questo? Perché Minenna era uomo voluto da Di Maio. Sì. Si è dimesso poco fa anche il neo amministratore di AMA, sì, certo, che ha dichiarato senza Minenna non ci sono le condizioni per andare avanti, e quindi, diciamo, è in filiera. La Raineri è andata via più che altro diciamo ufficialmente per quanto Cantone ha certificato, ma questo per la verità la Raggi l'avevamo detto anche noi fin dall'inizio, ma con l'arroganza che la contraddistingue ci aveva dato semplicemente dei... Cioè, ma la questione qual è? Che il capo di gabinetto deve essere nominato attraverso un bando e non a chiamata diretta? Sì, deve esserci una selezione che parta diciamo dalla verifica delle risorse interne. Però questo... Ma questo è quello che aveva fatto la Giunta Marino prima, di cui lei è stato a un certo punto in un rimpasto? Sì, avevano fatto una selezione, ma in realtà lo strumento attraverso il quale poi un sindaco, io credo anche legittimamente, individui le caratteristiche necessarie, ci sono, il margine, diciamo, di autonomia c'è. Il problema è che anche la nomina della Raineri non era figlia di una valutazione di merito. Io non ho nulla da dire sulla Raineri, un magistrato serio, quindi non do giudizi sulle sue competenze. Dico che anche la Raineri era figlia di una dinamica di spartizione tra correnti, e la battaglia in questi 3 mesi, 70 giorni in cui stanno lavorando, non per Roma purtroppo, ma diciamo che stanno governando, è stata tutta all'interno, al loro interno, e adesso è deflagrata. Ma quindi si preannuncia anche qua, come è successo anche a Parma, cioè un progressivo allontanamento, anche se siamo solo all'inizio, del sindaco dal direttorio e quindi dalla... Questo come si fa a dirlo? Poi c'è un tema che in tutta questa vicenda c'è un dominus che si chiama Beppe Grillo, di cui è difficile sapere quali sono gli istinti che lo aggrediscono minuto per minuto, quindi Grillo potrebbe fare qualunque cosa. Ma però visto, vede, sì. rispetto a Parma, Livorno, Bagheria, no? In realtà qui stiamo parlando di Roma, cioè qui c'è un tema che una città che anche per responsabilità della mia parte politica, quindi io non è che le nascondo, non mi nascondo dietro un dito, ha problemi giganteschi. A me ha colpito, devo dire la verità, le dimissioni dell'amministratore unico di AMA. Cioè, AMA è un'azienda strategica. Hanno fatto la guerra a Fortini, apro chiudo parentesi, la vicenda Muraro è tutt'altro che chiusa. L'assessore all'ambiente, sì. È tutt'altro che chiusa, vedrete se mi sbaglio, è tutt'altro che chiusa. Perché? Nominano. Perché se qualcuno pensa che diciamo le intercettazioni che sono state acquisite, i suoi rapporti opachi con tutto il mondo di Cerroni siano finiti in un cassetto, secondo me si sbaglia, perché lì c'è materiale vero, ma lasciamo lavorare la magistratura, non voglio fare il lavoro che non mi compete, do un giudizio politico, la vicenda Muraro è tutt'altro che chiusa. Hanno fatto la guerra a Fortini, hanno detto di aver ripulito la città, lo sappiamo che purtroppo non è vero, ma io non è così. Viene nominato un amministratore unico, scelto direttamente peraltro a Milano dalla Casa Reggio Associati, quindi diciamo dalla cabina di comando. Questo se ne va dopo 3 settimane. E ATAC hanno fatto. Sta parlando di Solidoro? Di Solidoro e rimane decapitata. ATAC hanno fatto di tutto per andare via una persona seria come Retighieri, che stava ripulendo l'azienda e stava cercando di ridarle, diciamo, le coordinate minime per poter ripartire. Voi capite che è una città che ha su 2 settori strategici, pulizia e trasporti, sono decapitati. La giunta ha perso l'assessore principale, che è quello che deve gestire i conti, e senza capo di gabinetto. Quindi secondo lei anche anche le dimissioni dell'amministratore unico dell'AMA sono da ricondursi a questo braccio di ferro tra la Raggi? L'ha dichiarato, ha dichiarato me ne vado perché senza non c'è più Di Menna, non ci sono più le condizioni. E Di Menna l'aveva avuto Di Maio, dice lei. Quindi è tutto un puzzle, cioè è una resa dei conti. Sembra quasi una pulizia etnica, diciamo, di chi avrebbe perso. Questa è una lettura che le do io, perché sono tutte dello stesso filone. In più, la Reineri, ho visto 10 minuti fa un'agenzia in cui lei dichiara: io ero venuta qui a garantire la legalità, queste condizioni non ci sono, quindi ergo, mi corregga se sbaglio nella lettura dell'italiano, se una dice ero venuta qui, avevo accettato questo incarico per garantire la legalità, non trovo queste condizioni, vuol dire che ha trovato una situazione di illegalità. Ci fermiamo un attimo per il traffico, se ha ancora un po' di tempo per rimanere con noi, ci risentiamo tra 30 secondi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Allora, agli ascoltatori che al 349-238-6666 scrivono: ma si può sentire anche l'altra parte politica, ossia il Movimento 5 Stelle? Ma certamente, se avete voi il numero di qualcuno che risponde oggi al Movimento 5 Stelle, noi siamo qua. E non rispondeva nessuno. Esposito, sì. A proposito, secondo lei anche sul tema delle Olimpiadi, la Raggi sta cambiando idea, avrebbe voglia di cambiare idea? Si sta aprendo uno spiraglio o una divisione all'interno del Movimento 5 Stelle? Ma guardi, questo io non lo posso dire. Io ho ascoltato in diretta l'intervento di Berdini, l'assessore, sì, all'urbanistica, che, devo dire la verità, ho condiviso. Cioè, ha proprio ragione Berdini. Quello è la posizione di un amministratore serio, al di là del fatto che sia in un altro movimento politico che non è il mio. E lui ha posto un tema, dice: noi le Olimpiadi ci possiamo ragionare se attraverso le risorse che arrivano dalle Olimpiadi riusciamo a realizzare quello che è il nostro progetto e sulla base del quale i romani ci hanno votato. Io non ci trovo niente di male, è chiaro, anzi lo giudico un atteggiamento serio. No, anche però perché se il progetto delle Olimpiadi cambiasse in qualche modo, diventasse un progetto che finanzia gli impianti dal basso, un progetto che mira, che ne so, a rivitalizzare l'atletica eccetera eccetera nella capitale, sarebbe difficile poi dire di no. Sarebbe molto difficile dire di no. No, ma Berdini ha posto anche un problema sul tema delle infrastrutture, delle tranvie. Cioè, io le dico, da torinese che ha vissuto direttamente che cosa hanno significato le Olimpiadi per Torino, in termini di cambiamento, infrastrutturazione, realizzazione della linea metropolitana, cambiamento della città, io non trovo niente da ridire sulle posizioni di Berdini. Purtroppo, vabbè, adesso questa è la posizione vostra ufficiale, sì. Senta, ho trovato, diciamo, invece... Ho visto che però già nel, sì, movimento lo hanno attaccato Berdini, quindi c'è una discussione aperta. Se la faccia, secondo me per Roma è un'occasione persa, però a un certo punto, sa, io devo dire, è giusto rispettare il voto dei romani. I romani hanno votato la Raggi e... Che aveva detto chiaramente che non l'avrebbe fatto. L'aveva detto, quindi non è che possiamo stare qui a rincorrere, diciamo, le nostre opinioni. Noi abbiamo perso, hanno vinto, è giusto riconoscere questo. Ma è vero che lei oggi o ieri è stato multato mentre andava in bici sul marciapiedi a Torino? Né oggi né ieri, l'altro ieri. L'altro, sì, ieri, l'altro ieri. Sì. Ma, però lei è lo stesso che a Roma ha detto no alle piste ciclabili del Grab. E però, no, questa, mi perdoni, questa è la leggenda del web. Io ci sono... diciamo gli atti pubblici, sì. Io quando mi è stato presentato il progetto del Grab, sì, che era un disegno su una carta da formaggio, dove le piste ciclabili erano tracciate con una linea per terra, ho risposto: il Grab è una grande idea, le piste ciclabili sono una cosa seria, io le voglio fare in sicurezza, quindi le strisce per terra le farà qualcun altro, io non le faccio. Però adesso il governo Renzi l'ha finanziata, evidentemente non erano solo delle strisce per finanziato... terra. No, guardi, ha finanziato l'idea, non ha finanziato il progetto, tant'è che la Meleo ha detto abbiamo riaffidato la progettazione, attenzione. Quindi deve essere tutto riprogettato, perché Del Rio ha detto questa infrastruttura si farà. No, ma l'infrastruttura è un'operazione molto intelligente, io condivido. Bisogna vedere come la fai e dove la fai. Tenga conto che, per esempio, in quel progetto che mi venne presentato, sì, c'era un pezzo di Grab che passava in alcuni parchi romani che alle 7 di sera chiudono. E quindi di fatto, no, diciamo, non è utilizzabile dopo quello. Però non mi vada sul marciapiedi con la bicicletta, altrimenti mi alimenta la guerra tra poveri, pedoni contro ciclisti, è un disastro. No, guarda, io ho il grande vantaggio di essere una persona che va in bicicletta, va a piedi. Ma bisogna vedere dove ci va in bicicletta, perché se... No, io dove non ci sono le piste ciclabili, lo dico con grande franchezza, quando sono con i miei figli, perché quando sono da solo, no, ma quando sono con i miei figli... E avendone una da portare nel seggiolino dietro e due a cui badare di 9-12 anni, vado sul marciapiede nel rispetto dei pedoni, hanno loro la precedenza, non corro, non li insulto, mi fermo, faccio passare loro. È come sempre il buon senso, che è una di quelle cose che in questo paese però non si può, e i pedoni si arrabbiano molto quando vedono passare, poi se lei va piano piano può darsi che... No, ma i pedoni si arrabbiano con si arrabbiano con le biciclette che tagliano la strada ai pedoni sul marciapiede. Però attenzione, in tutte le categorie, che siano pedoni, che siano motociclisti, io sono anche motociclista peraltro, che siano persone che guidano l'auto, gli stupidi ci sono ovunque, quindi... In ogni categoria, questo è indubbiamente. L'applicazione del buon senso è quello che aiuta. Dopodiché il vigile ha ritenuto che io fossi, giustamente, lui ha applicato rigorosamente il codice della strada. Io ritengo che lo abbia fatto in maniera, come dire, legittima, ma c'erano le condizioni per poter consentirmi di andare in vista la situazione che c'è in quel momento, la strada. E saranno le nuove direttive del Movimento 5 Stelle che amministra Torino? Non era un agguato. È un agguato politico, forse? Un agguato politico nei suoi confronti? No, non era un agguato. Buonasera, grazie. Bene, Esposito. Arrivederci. Buona serata. Allora, Leonardo da Novara, buonasera, prego, benvenuto. Buonasera. Io ho chiesto di intervenire sulla giornata del Fertility Day, sì, proposta dal ministro Lorenzini. Credo di essere nella minoranza che ha approvato, comunque che crede che sia un'iniziativa utile. Io ieri ho detto, ascoltatore unico che dai ragione a questo tipo di campagna, chiamaci e spiegaci perché. Perché sei l'unico, Leonardo, credo. Fino ad ora. Qualcuno che è intervenuto prima, anche la signora. Sì, che forse, è sì, prima. Forse sì, sì. Saremo in due, forse. Ho cercato di difenderla anche su Facebook, ma è stata un'impresa improbabile. No, la questione secondo me è la seguente, che c'è... Non è una questione di carriera o di attendere per motivi strani per avere figli, è che molte persone pensano che un momento valga l'altro, che si possa aspettare a 30, 35, 38, 28 anni, che sia come provarsi a 20 anni. Io personalmente ci sono passato, ho avuto grossissime difficoltà per avere un figlio e a che età? Sofferenza che si prova. L'abbiamo avuto a 34 anni. Beh, 34 anni sei abbastanza giovane, Leonardo. Forse sono c'era, abbastanza giovane, c'era qualcosa che non funzionava, sì, l'avresti avuto anche a 28 o a 25. Quanta gente si pone il problema e non dà per scontato, quanti, soprattutto sul lato maschile, quanti uomini... Però Leonardo, ti posso dire che questa riflessione la fai perché hai avuto un problema e questa è la mia solidarietà. Io l'ho detto fin dall'inizio, la cosa che mi sta a cuore sono le persone che cercano di avere figli e non ci riescono, perché questa è una grande questione, è una grande frustrazione, ed è un tema da affrontare anche dal punto di vista sanitario sicuramente, però c'è bisogno di una campagna che ci dica che col passare dell'età la fertilità si abbassa. Io non lo so, secondo me non in quei termini, ecco, non in quel modo lì. Però la Lorenzin ha detto che sono state estrapolate solo alcune cartoline sul totale di quelle che poi verranno fuori, ma qualcosa cambierà. Comunque Leonardo, se vuoi chiudere, che poi abbiamo il GR, 30 secondi per chiudere. Arrivederci, era solo questo. Va bene, benissimo, grazie, buona serata. 800 24 00 24, ci risentiamo tra poco dopo il GR. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Sa perché mettono le maschere d'ossigeno sull'aereo? Per poter respirare. L'ossigeno ti fa sballare. Una storia speciale che assomiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solamente attraverso la radio. Ehi, bentornato a casa, Vic. Grazie. Che effetto fa la libertà? Piacevole. Sembra niente, ma è proprio così. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Piano, un grande architetto, ha fatto delle altre cose, non è che si è occupato di questi temi qua, fa delle altre cose. È un simbolo. No? È già senatore a vita. È come se ti viene la carie al dente e chiamate un bravissimo oncologo. Non vi risolve il problema. 19:15 minuti, buonasera ad Alessio Maurizi, ben ritrovati ascoltatori all'800 24 00 24. Tutti d'accordo sulla incarico informale a Renzo Piano come per stendere un progetto per ricostruire, per insomma risistemare le città zoppate dal terremoto? No, non siamo tutti d'accordo. Una voce discordante era quella di Philippe Daverio. Ieri sera invece è intervenuta ai nostri microfoni l'amministratrice di Milano Ristorazione, che parlando della svolta contro la plastica, basta plastica, solo stoviglie biodegradabili, quindi basta, usa e getta, da questo punto di vista nelle scuole di Milano, a proposito dei pasti vegani per i bambini anche piccoli, ha risposto così: l'ASL ci autorizza a fornirli, anche se, lo sapete, proprio a Milano c'è stato un caso di un bambino di poco più di un anno che è stata tolta da patria potestà ai genitori perché è stata affidata ai nonni, perché era malnutrito, i genitori erano vegani. Bisogna vedere caso per caso, però questo è un caso. Così Iacono di Milano Ristorazione. Se noi abbiamo una richiesta di un genitore per un menù vegano, non possiamo, in età così, diciamo, in età pediatrica, dai pochi mesi all'anno, ai 3 anni, non possiamo non erogarlo. La ASL ci diceva che sostanzialmente loro sono contrari, non sono favorevoli all'introduzione del menù vegano ai bambini al di sotto dei 3 anni, a meno che non ci sia una richiesta specifica del medico pediatra di base. Godiamoci People Have the Power, però in Italia la gente oggi ha anche il potere di decidere di non farsi curare come si dovrebbe da una leucemia. È accaduto a una ragazza di 18 anni che è morta qualche giorno fa, i funerali sono stati fatti oggi a Bagnoli, parliamo di Eleonora Bottaro, i cui genitori, seguaci del medico radiato però dall'ordine dei medici tedesco Gerd Hammer, sono contrari ai farmaci, sono contrari alla chemioterapia. Lei stessa, ha raggiunto i 18 anni di età, non ha autorizzato queste cure, è morta, è andata in Svizzera a farsi curare altrimenti con della vitamina. E però il primario di oncologia dell'ospedale di Padova dice la sua era una leucemia curabile all'80%, e quindi è davvero drammatico che oggi una cosa del genere possa accadere. Che cos'è la medicina, la nuova medicina tedesca fondata da Gerd Hammer? È con noi Fabrizio Camilletti, operatore olistico che si occupa di medicina biologica emozionale. Che cos'è, una branca della nuova medicina tedesca di Hammer? Sì, buonasera. No, buonasera. Non è proprio in questi termini. La medicina biologica emozionale è una medicina che si occupa dell'aspetto emozionale di, diciamo, del nostro di corpo e anche delle malattie. Esattamente. Sì, ecco. Perché so che tra la vostra associazione in Italia, che lo si chiami ALBA, e la medicina di Hammer, che tra l'altro è ancora vivo in Germania, c'è stato un rapporto di filiazione inizialmente, poi interrotto. Dunque, noi con ALBA non c'entriamo nulla, c'è stata sì. una filiazione tra il dottor Hammer sì. e l'associazione ALBA con degli accordi o qualcosa del genere, che però non hanno niente a che fare con il nostro gruppo. Voi non siete seguaci di Hammer in nessun modo? Noi non ci riteniamo seguaci di Hammer, noi abbiamo studiato attentamente, io personalmente ho conosciuto il dottor Hammer, ho ascoltato le sue lezioni, i suoi interventi e ascoltato in tanti aspetti, poi ci siamo fatti delle nostre idee, riteniamo che le leggi biologiche, lui come l'ha definite, abbiano un senso di validità a livello di ascolto, diagnostico, eccetera, ma dal punto di vista terapeutico riteniamo fortemente importante il binomio tra un aiuto emozionale di cui ci occupiamo noi e l'aiuto, o meglio l'intervento farmacologico che è previsto già dalla nostra medicina. Ecco, questa è già un'impostazione che comprende i due aspetti e io fin qua la seguo. Quando Hammer dice, ed è il motivo per cui forse questa famiglia non ha voluto curare con la chemioterapia questa ragazza, anche se poi i genitori dicono che non c'entra nulla, che è stata una sua scelta libera, ma Hammer dice che il tumore è frutto di un conflitto psichico. Ecco, questo c'è molta confusione da questo punto di vista, perché quando parla di conflitto, fondamentalmente noi siamo portati a pensare a un elemento fortemente devastante della nostra vita. Non è così nella realtà. A questa ragazza era morto un fratello qualche tempo prima. Perfettamente, d'accordo. Ci può essere tutte le componenti emozionali che hanno questo tipo di processo, ma di per sé non è sufficiente a scaturire dal punto di vista emozionale una malattia di questo genere. Ci deve essere qualcos'altro, una sorta di, chiamiamola, predisposizione fisica ed emozionale perché si manifesti questo tipo di malattia, ma qualsiasi altra malattia. Cioè, quello che voglio dire è non è il conflitto di per sé, che possiamo definirlo come fosse una sorta di stress a cui siamo sottoposti, ma una serie continuativa e di un comportamento continuativo di un processo che manteniamo in atto e alla fine il corpo va in allarme attraverso i suoi sistemi di mantenimento, uno tra tutti il sistema immunitario ad esempio, che sottoposto a continuo stress, se vogliamo, alla fine cede in qualche maniera. Ma mi dica una cosa, ma lei avrebbe consigliato a Eleonora di curarsi con una chemioterapia o no? Allora, io sono un operatore olistico, non sono un medico, non posso entrare nella sfera di consigliare una terapia o meno. Il consiglio di comunque essere seguita da un oncologo che può dare una valutazione quanto è importante fare chemioterapia in quel momento o meno, ma questo sì, assolutamente sì. Perché, ma quindi secondo lei, scusi, secondo lei cioè, che cosa può essere successo? Perché per quanto uno seguace di Hammer, a un certo punto se vede che non guarisce, le prova tutte e credo che provi anche la chemioterapia. È possibile che ci si spinga così in là fino a rifiutare le cure nel caso di un approccio olistico come quello di Hammer e in parte anche come fate voi, come proponete voi? Allora, il punto è un po' molto molto delicato in questi termini. Tutte le cose portate all'estremo diventano pericolose in quanto tali. Anche le cose più sane portate all'estremo diventano dannose in questo aspetto. Allora, il fatto che la chemioterapia abbia degli effetti tossici e collaterali lo riconosce la medicina ufficiale, questo è un dato di fatto. D'altra parte, però scusi, questo che vuol dire? Che uno, se uno non ha scelta di fronte a una malattia mortale come la leucemia, non credo che si preoccupi della tossicità della chemioterapia. No, appunto, voglio dire. E che allora perché sta dicendo? No, dico, se c'è una tossicità, ma questa tossicità si tratta di capire se in quel momento la patologia che va affrontata è più grave della tossicità del farmaco che ci assumiamo. È una leucemia, lo è? Appunto, no, voglio dire che in quel momento non dobbiamo preoccuparci degli effetti collaterali della leucemia, dobbiamo preoccuparci di quanto l'aspetto tumorale è aggressivo nei confronti del corpo e quindi va messa in condizioni di essere sedata questa situazione, quindi di essere affrontata con le giuste modalità. Mm. Quindi quello che le voglio dire è che noi quando lavoriamo con le persone con qualsiasi patologia, occupandoci dell'aspetto emozionale, sì, non facciamo altro che dare quel sostegno psichico, non psicologico, perché sono due livelli completamente diversi. Psichico cosa significa? Cioè in un linguaggio emozionale del corpo al di fuori di quello che la mente potrebbe vedere o comprendere. Ma lei è capitato, per esempio, di curare delle persone che avevano delle malattie organiche anche gravi con questo approccio psichico? Sì, lo facciamo, però la prova a curare è un po' fuori luogo in questo caso, perché noi ci integriamo con quello che è la medicina ufficiale. Le posso citare un caso su tutti. Abbiamo una ragazza con un linfoma non Hodgkin, praticamente era una situazione, guardi, molto simile a questa ragazza, problematiche importanti, situazioni veramente drammatiche. In più la sua famiglia non voleva accedere un po' alle cure tradizionali. Noi abbiamo detto, guarda che questa situazione è estremamente pericolosa. Intervenire da un punto di vista chemioterapico che va a limitare i danni che il corpo sta prendendo a causa di questo tumore. Poi emozionalmente intervenire per cambiare quello che è lo stato comportamentale ti permette di uscire da questo processo. Ecco, quindi mi raccomando, questo è un messaggio che possiamo dare, mi sta tranquillizzando in parte, perché io premetto che non verrei mai da non andrei mai da un non so come definirla, lei non è un medico, da uno specialista di un approccio olistico, psichico, emozionale per curarmi un tumore, non mi verrebbe mai in mente, non ho mai avuto un tumore, quindi non posso sapere come reagirei in quelle condizioni, però il messaggio che lei sta dando mi tranquillizza, cioè se in Italia chi segue questo approccio normalmente viene consigliato, almeno se capita con lei, di farle le cure, di fare la chemioterapia, di andare dall'oncologo, di andare dal medico e di curarsi. Poi si può seguire l'approccio psichico per migliorare la situazione. Questo è un altro discorso, però. Assolutamente, però per essere ancora più precisi, noi non lavoriamo svincolati dall'aspetto medico. Ci sono medici che vogliono un po' aprirsi in questa direzione e per cui cosa fanno? Ci integriamo in questa ottica, per cui le persone che vengono da noi con problematiche importanti hanno prima anche una lettura medica specifica, dopodiché vengono ovviamente a questo punto consigliate da chi è in grado di poterlo fare e di esprimere il proprio parere a portare avanti una visione tradizionale da una parte e quindi seguire un protocollo già previsto e parallelamente portarsi avanti in un processo emozionale di integrazione. Però torniamo per un momento, perché invece qua è successo che i genitori della ragazza erano proprio seguaci del dottor Hammer, ripeto, poi radiato dall'ordine dei medici in Germania. A proposito di Hammer, oggi la sua posizione qual è? Cioè lo ritiene fondate le sue teorie? Qui devo essere chiaro, io ritengo che la base su cui ne fa una lettura dove anche l'aspetto psichico contribuisce in maniera determinante al mantenere, se non altro, la malattia io ritengo che abbia una grande validità per la mia esperienza, per le mie conoscenze. Ma ha un fondamento scientifico, perché il sito dell'AIR, che è l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, che a casa mia è, diciamo, il massimo dell'affidabilità dal punto di vista scientifico, dice che la teoria alla base del metodo Hammer non ha nulla di scientifico, anzi contraddice molto di ciò che si sa sul funzionamento del corpo umano e lo sviluppo delle patologie tumorali. Ecco, su questo infatti noi ci prendiamo un pochino le distanze, non su quello che dice l'Arte, su quello che dice fondamentalmente il dottor Hammer, perché lui le affermazioni che fa le fa sulla base di uno studio empirico, quindi non totalmente scientifico. Per questo le dico che l'esperienza che noi portiamo, non essendo la nostra definibile cura in quanto non è protocollata e non segue tutti i processi previsti dalla scienza stessa, noi diventiamo un elemento di integrazione con la medicina stessa. E i risultati che oggi otteniamo non sono risultati nostri, sono risultati di un processo molto più complesso, che è quanto la persona si mette in gioco, quanto la medicina interviene in maniera specifica, eccetera. Quindi tutto un aspetto molto più complesso. Ma quello che abbiamo verificato è che i tempi legati alla guarigione, i tempi legati anche ad esempio al diminuire gli effetti collaterali che spesso i farmaci hanno, diventa un risultato importante. Ora, da qui parliamo però sempre di un coadiuvante rispetto a una terapia, assolutamente una terapia medica tradizionale, perché ecco, il metodo Hammer prevede anche il fatto di rinnegare completamente i farmaci. Anche questo bisogna dire che è sbagliato. Assolutamente d'accordo da questo punto di vista. Ecco perché quello che noi cerchiamo è una metodologia, o meglio, una medicina che valuta attentamente quanto è indispensabile un farmaco, per quanto tempo, come intervenire. Quindi una medicina che diventa più specifica per la persona, una medicina che va a lavorare in maniera completa, in maniera olistica, in maniera vero del termine, perché a volte dietro a una patologia c'è anche tutta una componente familiare. Quante persone seguono questo approccio olistico in Italia? Lei ha una stima, visto che fa parte di questo universo, cioè quanti sedi ci sono in Italia, quante persone lo seguono? Guardi, è un dato difficile da definire questo. Noi ci riteniamo una posizione, diciamo, un po' fuori da questo schema che c'è in generale. Le dico perché? Perché rispetto alla cosiddetta medicina alternativa, noi ci sentiamo proprio invece integrativi in questo senso. Devo chiudere. Grazie Camilletti per essere stato con noi. 800 24 0024 Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, ascoltatori, all'800 24 0024 andiamo con Tommaso che chiama da Roma. Buonasera Tommaso. Buonasera. Allora, io chiamavo perché pensavo che dopo Family Day le avessimo viste tutte, però poi niente. Un ministro che ha partecipato al Family Day e promosso il Family Day si inventa il Fertility Day. L'importante è che ci sia la parola day, questo abbiamo capito. Sì, questa partecipa tutti i giorni, il problema è solo questo, però poi alla fine ai giorni della gente non ci pensa nessuno. Diciamo che con una trovata al giorno, così, giusto per rimanere sul day, non si va molto lontano, ma ci vuole altro. Anche perché insomma se partecipa al Family Day, poi fa il Fertility Day e mi viene a dire che le politiche per la famiglia e le politiche per la fertilità non sono strettamente legate, sì, forse c'è qualcosa di poco chiaro nella sua testa. Però una domanda che mi preme di fare al mio ministro è questa: se la fertilità delle donne a 37 anni è pari quasi a zero, e lei lo sa meglio di noi perché ce l'ha insegnato 5 minuti fa, un'oretta fa, per perché ha aspettato 43 anni per rimanere incinta la ministra? Forse perché dal 96 era troppo impegnata in politica per fare carriera e quindi... Beh, oddio, il momento di massimo impegno è questo, quando è diventata ministro, quindi ha scelto il momento di massimo impegno politico. No, però la sua domanda è... È arrivata ormai all'apice della carriera, quindi può permettersi anche di dedicarsi ai due gemelli. Però poi dopo mi ha tirato fuori anche una riflessione Stefano Esposito, quando ha detto che un cretino si trova sempre, a proposito delle biciclette. A me è venuto in mente che anche in radio si trova spesso un cretino. Perché un ex assessore ai trasporti del Comune di Roma, tempo fa, proprio a Radio 24, canticchiava allegramente una canzoncina che paragonava Roma e i romanisti a qualcosa di che ha a che fare con il mestiere della Muraro. Se vuole essere più esplicito, perché io... Ma la canzoncina era Roma merda, Roma, Roma merda, sì, l'ha canticchiata con Cruciani proprio. Sì. Non so se ricorda l'episodio. No, non me la ricordo, non me la ricordo. Con Cruciani sicuramente sì, perché ci ha fatto una ventina di puntate, stiamo apparendo, sono un ascoltatore assiduo. Però ecco, al di là di tutto, la ministra, se voleva informare, più che altro ha creato veramente terrorismo psicologico e non sa quante donne ha fatto del male, perché ha fatto male a moltissime donne che hanno come unico sogno nella vita avere dei figli e non ci riescono. E soprattutto non può dire che non vogliono, aspettano troppo. Va bene, Tommaso, è chiaro il concetto. Grazie. Facessero altro. Ciao, buona serata, grazie. Valerio da Treviso, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, innanzitutto volevo dire complimenti per la trasmissione, ma due riflessioni, una appunto sul testing e un'altra sulla chemioterapia. Allora, sì, sentiamo male però, Valerio, mi spiace. Ecco, riproviamo un attimo, si mette... Un attimo solo, tolgo la voce. Bravo. Mi sente adesso? Sì. Ecco qua. Allora, dunque, Lorenzin politicamente è una persona morta. Ricordiamoci che ci sono 11 milioni di persone in Italia che non si curano perché non hanno soldi per curarsi. Ci sono persone che potrebbero tranquillamente avere figli e non li fanno perché non hanno soldi per mantenerli o per portare avanti le cose. Quindi quello che sta facendo Lorenzin è l'ennesima cretinata di regime su cui non discuto neanche più. Per quanto riguarda la chemioterapia, ho sentito prima quel signore parlare. Allora, ci dobbiamo ricordare la differenza tra giornalai e giornalisti. Allora, quasi l'83% dei medici intervistati ha dichiarato che la chemioterapia non se la farebbe fare mai. Allora, il discorso... Chi l'ha dichiarato dove questa cosa qua? C'è un'inchiesta che è stata fatta presso l'Ordine dei Medici con interviste in cui oltre l'83% dei medici ha dichiarato che personalmente la chemio non se la farebbe fare mai. Ma io questa cosa che lei dice che è la premessa del suo discorso... Le ripeto, si informi. È un giornalista, però lei ci deve dire... No, non è che io mi informo, lei deve dire chi l'ha detta questa cosa qua. Allora, dice, mi ricordo di aver letto da qualche parte, sa quante stronzate ci sono in giro? Assolutamente sì, però il dato da quale giornale... a quale rivista è stato dato questo riferimento, ora sinceramente non lo ricordo perché mi sta cogliendo. Scusi, non ce l'ho. Anch'io mi ricordo, mio cugino mi ha detto, sa cosa mi ha detto mio cugino? No. Scusi, non stia a fare questo ragionamento, la prego, perché lei ha la possibilità... Lo faccio questo ragionamento, perché quello che lei dice è una premessa che non si basa su niente. Mi permetta, lei ha già finito, se dice che i medici, secondo lei, non si farebbero la chemioterapia, si è già risposto da solo, sta dicendo che non bisogna farla, perché se non se la fanno loro. Sì. Le risposte, i dati di guarigione da una chemioterapia dopo 5 anni, questi sono dati ufficiali che lei può trovare sul sito. Può trovare lei sta parlando di una chemioterapia, io le sto parlando di un caso di leucemia che secondo il primario di oncologia di Padova è curabile, quel caso lì all'80% con la chemioterapia, e anche quelli sono dati sul... Certo che lo afferma lui. Io le sto citando un medico che dice un'affermazione che può essere controvertita, da chiunque. Ma altri medici chi? Ma chi lo dice? Lo dice lei, lo sta dicendo lei. Si informi lei meglio e mi richiama domani, mi dice nome e cognome della persona che ha detto quella cosa lì. Altrimenti quello che lei sta dicendo è una stronzata galattica e basta, ha capito? È un una stronzata galattica. Se lei mi garantisce che domani io la chiamo e mi metto in diretta, assolutamente, però mi deve dire nome e cognome. Io le ho detto nome e cognome: il dottor Giuseppe Basso, primario dell'oncologia di Padova, dice che quella malattia si cura all'80% dei casi con la chemioterapia. Certo, l'afferma lui, però l'afferma lui. Scusi, no, l'afferma lui. No, l'afferma lui mettendoci la faccia. Qualunque altro medico del pianeta lo può smentire se quello che dice è falso. Quello che dice lei non lo può smentire nessuno, perché lo sa solo lei, ha capito? Allora, la differenza è questa. Lei così sta dicendo solo. Se lei mi permette, io la chiamo domani e le dico il sito dove, con i riferimenti di nome e cognome di persona. Noi siamo qua. Buonanotte, ci sentiamo domani. Buonanotte, grazie, sì, grazie, arrivederci. Grazie. Buonanotte, a domani. 800 24 00 24, noi siamo qua domani, mi raccomando, chiama, perché non aspettiamo altro. Adesso possiamo distenderci un attimo, parliamo di calcio, vai. Allora, è con noi Mario Savo, che è presidente dell'Associazione Italiana Analisti di Performance del Calcio. Buonasera. Buonasera Alessio. Allora, intanto che cos'è un performer nel mondo del calcio, e cos'è questa associazione di analisti di performance del calcio? Sì, la performance analysis è essenzialmente una disciplina che si occupa di studiare la performance, quindi la prestazione sportiva, sia dal punto di vista tattico, qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo, statistico. È una disciplina, diciamo, che nel calcio si è diffusa a partire dagli anni 50 in Inghilterra, con figure quali Charles Riff, Stan Callis, che era l'allenatore dell'allora Wolverhampton, che appunto iniziano un approccio allo studio del gioco, del calcio statistico. Cioè praticamente io banalizzo, voi fate i conti di quanti passaggi, quante assist, quante spostamenti all'interno del campo ci sono, e tutto questo diventa una materia che può essere trattata statisticamente, che alle squadre di calcio serve, interessa, voi siete consulenti. La notizia bella da cui partiamo è che in un recente contest messo in piedi dal Manchester City, niente proprio di meno che, sono state convocate un sacco di performers analyst. E voi avete praticamente sbaragliato la concorrenza e avete vinto questa specie di gara, di test. Sì, esatto, diciamo che erano quattro premi in palio. Noi abbiamo vinto il Players Player Award, che sarebbe il premio dei performance analyst, ovvero siamo partiti con una selezione, il Manchester City ha iniziato questa selezione partendo da 30.000 candidature da tutto il mondo, siamo diventati poi 400 e infine 70. Su base mondiale, che sono stati chiamati tre giorni a Manchester. Hai detto poco, da 30.000 ragazzi. Sì, no, è stata una bellissima esperienza. E ci siamo ritrovati lì in 70, di questi 73 eravamo italiani. Abbiamo deciso di formare un gruppo, dato che poi si andava a competere in gruppo, quindi ogni gruppo, erano 12 gruppi, dovevano presentare un progetto. Sì. E abbiamo deciso di unirci in un gruppo. Abbiamo preso un ragazzo anche inglese nel gruppo e abbiamo essenzialmente elaborato un progetto, un modello di analisi di performance che alla fine appunto è stato eletto dai 70 finalisti del contest, quindi dagli analisti stessi, come, diciamo, il progetto migliore in gara. E quindi, insomma, abbiamo riportato in Italia questo premio molto molto importante del insomma, ecco, questo è stato un premio che ha un valore, ma che vuol dire anche che voi adesso siete consulenti del Manchester City, abbiamo capito bene? Allora, cioè è una cosa che andrà avanti, è un esatto, sviluppo. Esatto, sotto questo punto di vista è successo questo: noi abbiamo vinto il premio e il reparto performance analysis del Manchester City, diciamo che è rimasto colpito dal modello. E quindi ci hanno proposto di eventualmente in futuro svilupparlo insieme. Quindi diciamo che noi siamo in contatto con loro e attendiamo, insomma, loro direttive al riguardo. Anche se a noi ci farebbe piacere che, se siete così bravi, deste una mano alle squadre italiane, insomma, se proprio vogliamo. Beh, sarebbe, vabbè. Non avete comunque contratti al momento anche con altre squadre? Allora, io diciamo che del gruppo io ero l'unico che svolgeva professionalmente la, appunto, la professione di performance analyst calcista. E tu hai lavorato anche per delle altre squadre italiane, sì, questo sì. Sì, sì, esatto. Sì, sì, io 2 anni fa ero a Latina Calcio in Serie B con lo sport di Marchio Liano. Quindi... certo, da Latina però al Manchester City c'è un bel salto. Ci fai però qualche esempio sì, così per a chi ama il calcio, ma anche no, insomma, per capire di cosa stiamo parlando esattamente, cioè qual è il vostro apporto a... Guarda, considera che di cosa ci occupiamo noi? Noi di solito abbiamo dei database di dati, raccogliamo dati statistici, tu prima hai detto il numero dei tiri, il numero dei passaggi, sì, sì, ma questi sono dati statistici più importanti per un giornalista che per un allenatore, perché tu devi, diciamo, la differenza sta in questo, che il prima hai detto noi siamo consulenti delle squadre, in realtà il performance analyst è un non tanto un consulente quanto un membro degli staff tecnici, quindi lavoriamo all'interno degli staff tecnici con i mister, con gli allenatori, con i preparatori atletici, raccogliamo tutte le informazioni, ok, che ci arrivano anche le informazioni di natura fisica che ci vengono passate dai preparatori atletici, quindi carichi di lavoro, quindi le velocità di spostamento dei calciatori, velocità di corsa in campo, e dati più puramente tattici, quindi per esempio le posizioni in campo, prese in che modo? Prese attraverso il GPS, prese attraverso delle telecamere molto particolari, delle telecamere di tracking che permettono di monitorare, di registrare gli spostamenti degli atleti in campo addirittura per ogni frame di secondo, cioè ogni fotogramma, quindi 24 volte in secondo. Cioè, quindi pensate, sappiamo... cosa ci può essere dietro a una squadra del livello del Manchester City, e uno dice il grande allenatore Guardiola, sì, però dietro c'è un casino di questo genere, perché noi eravamo rimasti, almeno io personalmente, alla lavagna, l'allenatore che faceva i disegni sulla lavagna, ma qua siamo anni luce proprio da tutt'altra parte. Quello sicuramente resta, perché poi la lavagna è uno strumento essenziale col quale poter, la lavagna oggi si utilizza nei video, perché poi noi facciamo prepariamo dei video con dei tagli, con delle costanti tattiche, no, degli avversari. Per esempio il mio ruolo quando ero alla Latina era appunto lo studio dell'avversario, quindi io analizzavo le ultime 5-6 partite dell'avversario di turno che dovevo andare ad affrontare la mia squadra, e poi gli facevi un quadro sintetico. Esatto, ma esatto. Qual è la differenza più grande tra che hai trovato tu nel calcio inglese con quello italiano? Cioè una differenza di approccio? Guarda, la differenza è essenzialmente che nel calcio inglese sono talmente avanti, diciamo, rispetto a noi a livello proprio di impostazione, di concepimento della figura, all'interno esistono dei veri e propri dipartimenti di performance analysis, quindi all'interno ci sono figure provenienti da vari ambiti, da varie discipline. Ti faccio un esempio: nei 70 finalisti al concorso di Manchester, circa in 10 eravamo performance analyst professionisti, gli altri erano matematici, statistici, informatici. Quei database che utilizzano loro sono talmente complessi che per farli girare hanno bisogno di ingegneri di dati, sì, di programmatori. E chi erano i concorrenti più agguerriti? Da quale paese venivano? Ma guarda, erano quasi tutti, la maggior parte erano inglesi, molti erano inglesi. Okay. C'erano però concorrenti, diciamo, un po' da tutto il mondo. Erano molto bravi anche quelli dell'area portoghese e spagnola. Basta che pensi comunque al loro sistema calcistico, è comunque un sistema calcistico molto molto sviluppato. Noi in Italia, per quanto ci riguarda, siamo i migliori, secondo me, dal punto di vista tattico. Dal punto di vista della performance, però, come ti dicevo prima, se mentre in Inghilterra, qual è la differenza principale? In Inghilterra tu hai all'interno di una funzione delle discipline diverse che collaborano e che dialogano, no? In qualità di performance analyst. Il problema invece è che in Italia, e questo è un po', diciamo, il motivo per il quale anche ho deciso di prendere in mano questa associazione, di fondarla e di insomma farla iniziare a funzionare, iniziare a diffondere questa disciplina. Il problema è che in Italia il performance analyst è visto come un allenatore, quindi anche per esempio la nostra federazione, per diventare match analyst o performance analyst, perché poi vengono utilizzati molto spesso l'una per l'altra queste due parole, anche se rappresentano un po' cose un po' diverse, per la Federazione Italiana Gioco Calcio, per accedere ai corsi, quindi a Coverciano, che verranno fatti dal 2017, bisogna avere il patentino allenatore UEFA B. Per accedere ad avere questo patentino è molto difficile se non hai giocato a pallone o se devi entrare in una graduatoria, ok? Questo significa che tu fondamentalmente consideri per questa figura soltanto ex allenatori, o comunque ex calciatori, quindi in qualche modo è come se mettessi una barriera all'entrata per matematici, statistici, informatici, tutte persone che invece in Inghilterra vanno vanno a rappresentare la vera ricchezza di questo ruolo, che è un ruolo ibrido. Senti, a proposito di tecnologie, stasera sì, nella partita della Nazionale a Bari debutta la moviola in campo, il VAR, il cosiddetto sistema VAR, che ne pensi? Io sono favorevole assolutamente, voglio dire, ci sono sport nei quali abbiamo visto le Olimpiadi di Rio, abbiamo visto continuamente moviole. La pallavolo, per esempio, continuamente si chiedeva il verdetto del giudice. Sarebbe impossibile, ma io penso una cosa, che in uno sport globale globalizzato come è il mondo sportivo oggi, non soltanto del calcio ma di tante altre discipline, in un settore nel quale da una decisione di un arbitro dipendono le sorti di società che investono molto denaro, è normale che bisogna ricorrere a... Non è normale semmai che ci siamo arrivati così tardi, forse dopo così tanto tempo. Sicuramente, poi ci mettiamo sempre un po' a capirlo, però meno male che ci siamo arrivati, insomma, io vedo sempre un po' il bicchiere mezzo pieno. Va bene, grazie, buona serata Mario Savo. Grazie a te e grazie a tutti voi. E allora, il suo gruppo è quello che ha vinto il contest del Manchester City per gli analisti che studiano appunto le statistiche, ma non solo, avete sentito quanto è complessa questa disciplina, però insomma su 30.000 ne è rimasto in piedi soltanto 4, uno di loro 4 era un italiano, e allora un po' di orgoglio italico ci faceva piacere. Massimo dalla provincia di Frosinone, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Eccoci qua. Intanto scusami Massimo, voglio dire una cosa ad alcuni ascoltatori che via SMS scrivono perché mi sono riscaldato così prima con l'ascoltatore che aveva la tesi sul fatto che la chemioterapia non serve a nulla sostanzialmente. Mi sono riscaldato molto perché è un tema delicatissimo questo, e soprattutto perché non ne posso più, non posso accettare, quando parlo con chiunque, anche se sono alla radio, qualcuno che dice delle cose e non cita da dove vengono queste cose. C'è una statistica secondo cui i medici eccetera, cioè questo non esiste. Soprattutto su un tema così delicato come quello, non è ammissibile. Ecco perché, contrariamente a quello che mi piace fare, mio solito, mi sono inalberato. Massimo, prego, vai. No, ti capisco, sono d'accordo con te, perché poi dopo parlare senza cognizione è sempre grave, ma vedi, l'ascoltatore là poi ti denota proprio la caratteristica, no, di come si intendono le notizie, perché quando tu chiami Radio 24 ti dicono, mi raccomando, quando parli radio spenta, no auricolare, no viva voce, telefono diretto. Lui cosa stava facendo? Parlava con il viva voce, perché fondamentalmente poi l'italiano fa quello che gli pare, capito? E la stessa Massimo, cosa, mi piace il tuo approccio, sì no, così. È critico, no, perché poi la cosa assurda, che mi è sembrata assurda, è tutta questa campagna, tutto questo accanirsi verso una campagna di informazione semplicemente ricorda che scegliere di fare un figlio troppo in là con l'età potrebbe creare dei problemi sì. E questo accade in una nazione dove non si fa più educazione sessuale nelle scuole, dove però tu vieni lasciato veramente al niente dell'educazione rispetto a quello che è il tuo corpo, tant'è vero che i problemi inerenti a quello che è l'uso della chemio, l'uso delle terapie alternative, arriva proprio dalla mala informazione, perché quando tu decidi di volerti curare con l'erboristeria, per esempio, la regola principale è che curati con l'erboristeria, fai le cure omeopatiche, benissimo, ma nel caso in cui hai una crisi grave, per esempio allergica, prenditi il cortisone, perché ti devi salvare la vita in qualche maniera. Vabbè, alla fine non ho capito, Massimo, tu salvi o no la campagna della Lorenzin? Io la salvo ma totalmente. Nelle intenzioni o anche nella realizzazione? Perché poi bisogna vedere come la fai la campagna, cioè le immagini, la donna che si tocca il pancino con la clessidra, oppure ecco quella. Io l'ho trovata, io veramente sinceramente ti dico, l'ho trovata estremamente simpatica. Ecco, vabbè, ma Ma noi stiamo parlando di un paese, di un paese purtroppo che recepisce le cose quando e come vuole lui, perché noi se c'è un comico in televisione che ti dice, che fa una critica feroce, pensa quello è ironico, quello è giusto, quello è bravo, bravo un capopopolo. Sì, però proprio per questo allora forse bisogna mettere dei numeri, le cifre, le fasce di età. Allora quella sarebbe stata informazione, quel messaggio lì con la manina sul pancino e la clessidra che non è piaciuta a moltissime donne in particolare, perché l'hanno trovata colpevolizzante. Io da questo punto di vista le do ragione. Devo chiudere però, perché abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Una cosa, Massimo. La campagna non invita a fare i figli, la campagna ti dice semplicemente, se devi considerare di farlo, da qui a quando ti pare a te, considera che il tempo a un certo punto esaurisce. Va bene, grazie, buona serata, è tutto, ci risentiamo domani. Un ringraziamento a Cristian Goldoni, Riccardo Buccero, Riccardo Poli in redazione, Roberta Frisani in regia. Ci risentiamo domani dalle 18 con Si può fare. Ciao a tutti da Alessio Maurizi, buona serata.